Do la parola al padre Garon, che è padre Bianco, il presidente dell'Istituto Pontificio di Studi Islamici e Islamistica a Roma. Alla sua esperienza nell'Africa, in Inghilterra per gli studi, e siamo stati un anno insieme, io sono stato suo ospite a Ottawa nel 1920 anni fa. Allora do la parola a Riccardo. I professori dell'Istituto degli Studi Arabi ed Islamistica di Roma sono riconoscenti a Monsignor Roger e al padre Giulio Pasetti Sani per il gentile invito a partecipare a questo che si rivela adesso molto interessante incontro. Si tratta adesso del Pontificio Istituto di Studi Arabi ed Islamistica, ISAI, e la sua vocazione al dialogo con i musulmani. La formazione dei messaggeri del Vangelo che accettano di lavorare negli ambienti dove Gesù Cristo non è generalmente riconosciuto come il Signore è una delle maggiori preoccupazioni della Chiesa. Perciò non ci si meraviglia del fatto che i dicasteri romani favoriscano l'esistenza nel mondo universitario cattolico di facoltà e istituti il cui scopo principale è l'insegnamento delle scienze dell'evangelizzazione e delle discipline connesse. Il pensiero va immediatamente, considerando soltanto gli atenei romani, alle facoltà di missiologia delle due università per note e a ragione famose, quali la Gregoriana e l'Urbaniana. Se ne potrebbero menzionare molte altre ancora nel mondo cattolico. Tra queste ce ne sono pochissime, purtroppo, e il cui programma è conseguito in funzione di una cultura. Così? Grazie. Il cui programma è concepito in funzione di una cultura e una religione particolari, poche che nella loro ratio studiorum consentino a lasciare ampio spazio a una sola lingua, non soltanto classica o moderna, ma anche sacra e profana. È il caso del Pontificio Istituto di Studi Arabi e di Islamistica, di ISAI. Il fatto che la Chiesa abbia approvato un tale istituto e gli abbia conferito il titolo di pontificio mette bene in evidenza l'importanza che la Chiesa attribuisce al lavoro di testimonianza cristiana che si esercita in ambiente musulmano. Un tale ministero, che si può anche definire dialogo o missione, richiede una preparazione particolare, non fosse altro che a causa della lunga storia che sempre emerge, di conflitti e di malintesi che per secoli hanno messo in opposizione cristiani e musulmani. Non è del tutto certo del resto che tutti i cattolici, nonché la totalità degli stessi uomini di Chiesa, accettino come cosa naturale la relazione tra le due parole musulmani e dialogo. Bisognerebbe essere molto ingenui per non riconoscere che uno di questi due termini provoca delle risonanze dolorose e suscita reazioni negative presso molti cristiani. Non è possibile ignorare la difficile situazione, talvolta perfino drammatica, di molte comunità cristiane in ambiente musulmano. Né la violenza nella quale si sono identificati gruppi che attestano di appartenere all'Islam. Circostanze simili, lungi dallo scoraggiare la Chiesa, la spingono invece a promuovere un dialogo divenuto sempre più urgente tra coloro che credono in un solo Dio. Se è vero che il dialogo è introdotto adesso, a tutti i livelli, in tutti i campi, è proprio del politico, del sociale, dell'economico, e anche se è divenuto un elemento importante della struttura delle relazioni umane, si può arguire molto verosimilmente che non fa più incontrare delle persone, ma soltanto rappresentanti di comunità politiche, di classi sociali e di gruppi economici. Forse si potrebbe anche sostenere che lo stesso dialogo religioso non sia riuscito a sfuggire al pericolo dello scambio impersonale e che sia divenuto anch'esso un ingranaggio che fa confrontare le idee e le ideologie religiose senza fare incontrare i credenti delle religioni. E per sopperire a questo pericolo, che all'Istituto di Studi Arabi ed Islamistica la preparazione e la formazione dei testimoni del Cristo mirano, tra le altre cose, a farne degli artigiani del dialogo interpersonale con i musulmani. Se il dialogo religioso in generale è talvolta percepito come uno sterile esercizio, il dialogo islamo-cristiano da parte sua non sfugge né alla critica né al sospetto. Volentieri ci si domanderà che ne era del dialogo al tempo delle crociate, che ne era del dialogo evangelico all'epoca del colonialismo. Ascoltando questi interrogativi che suppongono già le loro risposte, si può comprendere perché molti musulmani vedono nel dialogo una manovra che ha lo scopo di supplire agli insuccessi del proselitismo dei missionari praticato nelle grandi religioni. Bisogna guardare in faccia queste obiezioni, avere l'onestà di riconoscere che non sono del tutto prive di fondamento e non meravigliarsi se si viene accusati di un discorso giustificativo quando si tenta di fare una teologia del dialogo. La storia, senza dubbio, non ha finito di provare ai cristiani che la loro propria evangelizzazione non è ancora completa e che essi stessi hanno ancora bisogno di conversione. Senza negarsi queste difficoltà, si può dire che il dialogo descrive bene oggi uno dei perni maggiori della missione della Chiesa. È necessario ristabilire per questo alla Chiesa del Vaticano II e più particolarmente all'enciclica di Paolo VI, Ecclesiam Suam, del 6 agosto 1964. È grazie a questa lettera memorabile che il Concilio ha fatto proprio l'ideale del dialogo. Ed è grazie a questo Papa che la Chiesa è divenuta, almeno ufficialmente, una Chiesa del dialogo. Paolo VI e il Concilio dietro a lui hanno voluto definire un'attitudine e un approccio rinnovati della Chiesa riguardo al mondo in generale e alle religioni in particolare. Paolo VI non ha esitato a dire, ed io cito, a proposito di questo impulso interiore di carità che tende a tradursi in un dono esteriore, noi adotteremo il nome divenuto oggi usuale del dialogo. Paolo VI arriva fino a considerare il dialogo come un modo d'essere autentico della Chiesa. Dice, per esempio, la Chiesa deve entrare in dialogo con il mondo nel quale vive. La Chiesa si fa parola, la Chiesa si fa messaggio, la Chiesa si fa colloquio. Il Pontificio Istituto di Studi Arabi ed Islamistica intende tenere ben desto e confermare presso gli studenti che si iscrivono ai suoi corsi il senso e il desiderio del dialogo. Si tratta effettivamente di cristiani impegnati, sacerdoti, religiosi, religiose e laici, che non si vergognano della missione della Chiesa e confessano che non esiste alcun altro nome in cui si può essere salvati se non quello di nostro Signore Gesù Cristo. Parole della Scrittura queste. Non sono soltanto occidentali espatriati, ma anche figli e figlie delle chiese locali d'Asia, d'Africa, del Medio Oriente, che animeranno e guideranno non delle comunità qualsiasi, ma comunità cristiane che devono vivere gomito a gomito con popolazioni spesso di maggioranza musulmana. È importante per loro comprendere che il dialogo a cui essi vogliono ispirarsi non risulta unicamente da un contesto sociologico moderno di riavvicinamento, anche religioso, ma che sorge dal seno stesso della missione della Chiesa, a patto che si sia compreso che questa missione è soprattutto un compito di riconciliazione, come già San Paolo faceva osservare ai cristiani di Corinto: tutto viene da Dio che ci ha riconciliati con Lui in Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. È significativo a questo proposito che il tema della riconciliazione abbia spontaneamente evocato nella mente dei padri del Sinodo dell'83 l'argomento del dialogo tra le religioni. In questo Sinodo si è parlato a diverse riprese di uno spirito di riconciliazione a riguardo delle religioni non cristiane e ancora della necessità di entrare in dialogo con esse. E nel suo discorso ai giovani marocchini di Casablanca, il 19 agosto del 1985, Giovanni Paolo II non ha temuto di parlare di riconciliazione Egli riconosce anzi tutti gli errori passati, dice, cristiani e musulmani generalmente ci siamo mal compresi. A qualche volta in passato ci siamo opposti e persi in polemiche e guerre. Io credo che Dio ci inviti oggi a cambiare le nostre vecchie abitudini. E aggiungeva un po' oltre, è Lui che pone nei nostri cuori sentimenti di misericordia e di comprensione, di perdono e di riconciliazione, di servizio e di collaborazione. È dal dialogo che passa alla riconciliazione, e definire il dialogo come uno strumento di riconciliazione o di comunione e richiamare una delle sue dimensioni teologiche essenziali. Queste brevi considerazioni vogliono mostrare come l'attuale Pontificio Istituto di Studi Arabi mira ad inserirsi in un clima ecclesiale di riavvicinamento e di dialogo con l'Islam dopo una lenta maturazione che si può far risalire al 1926, quando la Società dei Missionari d'Africa, Padri Bianchi, avevano creato un centro di studi per i loro membri destinati ad operare in ambiente musulmano e in modo speciale in Algeria e in Tunisia. Nel 1931 tale centro prendeva il nome di Istituto delle Belle Lettere Arabe, IBLA, meglio conosciuto sotto il nome di IBLA, centro che a tutt'oggi opera sempre a Tunisi. Si preferisce riportare la fondazione del PISAI al 1949 perché l'insegnamento propriamente detto venne in questa data distaccato dalle altre attività culturali dell'IBLA, e così ebbe inizio una nuova istituzione conosciuta come IPA, che divenne IPAI e che divenne PISAI, e così adesso è PISAI. Prima l'istituto era stato insediato a Manuba, nei pressi di Tunisi, ma per ragioni politiche fu costretto a lasciare la Tunisia nell'agosto del 64, e si era esitato sulla scelta di una nuova residenza in cui realizzare la futura installazione. Alla fine venne scelta come sede Roma, ed è vicino alla verità pensare che Paolo VI non fu estraneo a questa decisione. Peraltro fu lo stesso Papa ad invitare nel 67 l'istituto a stabilirsi al Palazzo Apollinare vicino a Piazza Navona, dove ancora oggi risiede. In linea di massima, l'insegnamento al PISAI riveste tre forme secondo i candidati a cui si rivolge. Comporta anzitutto un ciclo intensivo completo che si può svolgere in 2 anni se si desidera il diploma di studi arabi, e durare 3 anni e più se si desidera la licenza. Il corso del diploma comprende 2 sezioni, la sezione linguistica e la sezione islamologica. La sezione linguistica si propone l'insegnamento dell'arabo letterario classico e moderno. Il metodo utilizzato si sforza di dare una conoscenza viva e utilizzabile di questa lingua grazie a uno studio pratico e approfondito nel quale lo sforzo è puntato soprattutto sulla ricerca e la percezione dei contenuti culturali e religiosi della lingua. Nel primo anno l'insegnamento si avvale dell'audiovisivo e mira ad assicurare l'acquisizione dei meccanismi fondamentali della lingua araba letteraria in modo che si assicura la conoscenza del suo vocabolario di base. Il secondo anno è dedicato alla lingua araba moderna, letteratura, stampa, radio e televisione, come pure allo studio del vocabolario religioso di base a partire da quello del Corano. La sezione islamologica invece si compone delle diverse discipline che presentano la cultura islamica secondo un programma di 2 anni in ragione di 4 ore settimanali. Questo programma verte sulla teologia musulmana, la mistica, il diritto, la tradizione, la storia medievale e contemporanea, l'antropologia, la sociologia, le correnti moderne, religiose e politiche, la situazione dell'Islam in diversi paesi, le sette, eccetera. Il terzo anno immette gli studenti nell'ambito dell'arabo classico e le lezioni sono dispensate nella lingua araba. Gli studenti vengono iniziati alle opere letterarie, religiose e giuridiche rappresentative che consentono loro di inoltrarsi nella conoscenza della cultura araba e della civilizzazione islamica in generale. Durante questo terzo anno si richiede allo studente un lavoro personale di ricerca che generalmente si conclude con una dissertazione di almeno 150 pagine su testi arabi. C'è anche un programma di dottorato dopo 5 anni. No? A questi programmi regolari che si svolgono durante l'anno accademico bisogna aggiungere il corso estivo che l'istituto organizza durante il mese di luglio. Questo corso di 3 o 4 settimane viene dato alternativamente in inglese o in francese ed è indirizzato in prevalenza ai cristiani che hanno già una certa esperienza di vita a contatto con i musulmani. Abbiamo anche organizzato delle sessioni nei seguenti paesi: Burkina Faso, Sierra Leone, Indonesia, Malesia, Irlanda, Burundi, Zaire, Francia, Belgio e Marocco. Il programma dell'istituto si rivolge ai sacerdoti religiosi e laici che desiderano acquisire una migliore conoscenza dell'Islam per divenire, attraverso una genuina inculturazione, testimoni autentici del Cristo nel loro lavoro pastorale e nel servizio sociale che svolgono negli ambienti di elevata concentrazione musulmana. Ovviamente lo scopo dell'istituto non è di formare orientalisti, arabisti o islamisti. Secondo gli statuti dell'istituto, gli studenti si preparano a condurre con i musulmani un dialogo pienamente rispettoso di ciò che essi sono, di ciò che essi hanno e sentono, e studiano come potrebbero formulare l'annuncio cristiano senza diminuirne la portata in modo che trovi una risonanza nella loro cultura. Ma qui non parliamo solo dei musulmani. Una parte degli studenti dell'istituto, in una proporzione che varia ogni anno tra un terzo e un quarto delle iscrizioni, si compone di cristiani le cui chiese d'Asia o d'Africa devono coesistere con società musulmane. Sono loro che avranno la missione di animare le loro comunità nel senso del dialogo auspicato dalla Chiesa. Non dobbiamo peraltro dimenticare che alcune di queste comunità sono composte di arabi, la cui fede cristiana è anteriore all'avvento dell'Islam. Attento a non trascurare questi dati, l'Istituto offre ai suoi studenti corsi che tengono conto dell'influenza esercitata dalla cultura islamica e dalla religione musulmana sulle comunità cristiane. Questi corsi vertono sul vocabolario arabo della teologia e della liturgia delle chiese del Medio Oriente e dell'Egitto, sulla letteratura araba cristiana, sulla situazione delle minoranze cristiane, sul quadro storico e il contesto teologico delle relazioni islamo-cristiani e altresì sulle implicazioni che comporta l'attuazione della legge islamica, cioè la Sharia. La storia, ne siamo ben consapevoli, è qui di una importanza capitale. La storia ci ricorda ciò che è accaduto a molte chiese cristiane per le quali il contatto con l'Islam si è rivelato fatale, perfino in assenza di aperte persecuzioni. La storia si insegna inoltre che altre chiese, a prezzo di grandi sacrifici, sono riuscite a sopravvivere ma si mantengono spesso in condizioni assai precarie. Un missionario protestante scriveva più di 30 anni fa: l'Islam fin dai suoi primi inizi ha sempre tollerato le comunità cristiane nel proprio ambiente, sebbene a determinate condizioni, ma tende fortemente a rendere queste comunità statiche e ripiegate su se stesse. Gli studenti dell'istituto sono invitati a prendere in considerazione questa situazione durante il corso di storia di cui abbiamo parlato più sopra. È quindi necessario che lo studente, mentre prende coscienza che l'Islam non è un blocco monolitico, si renda anche conto della varietà delle esperienze che vivono le comunità cristiane nei diversi paesi dove prevale la religione musulmana. Per questa ragione non si è temuto di moltiplicare incontri con animatori di pastorale o capi di chiese che accettano di presentare la problematica relativa alla crescita delle loro chiese in ambiente islamico. Con il permesso del padre e la vostra pazienza, ne abbiamo ancora per 10 minuti. Abbiamo visto che i padri bianchi sono stati all'origine di un centro di studi in favore dei missionari destinati a vivere in contatto con i musulmani. Quando questo centro venne eretto in istituto pontificio, i padri bianchi se ne videro affidare ufficialmente la direzione, I padri bianchi continuarono quindi ad assumere la parte più grande dell'insegnamento. Nel palazzo Apollinare, dove l'istituto ha i suoi locali, si trova attualmente una comunità internazionale di 8 padri bianchi appartenenti a 4 diverse cittadinanze. L'istituto chiede anche la collaborazione di altre congregazioni, oltre che dei padri bianchi, allo scopo di apportare agli studenti punti di vista complementari provenienti da esperienze diversificate. Viene inoltre chiesto aiuto a professori originari di paesi come il Libano, la Siria, l'Egitto, la cui assistenza è di primaria importanza in un istituto che dedica una parte notevole del suo programma all'insegnamento della lingua araba. Non possiamo non rilevare la presenza dei professori invitati a tempo parziale e di conferenzieri invitati appartenenti a diverse confessioni cristiane, così pure il contributo di universitari musulmani che sono dediti al dialogo islamo-cristiano. Tra i mezzi preparati per facilitare il lavoro dello studente, l'istituto dispone di un laboratorio linguistico moderno, come pure di una completa attrezzatura di videocassette. Grazie a generosi benefattori, la scuola dispone di strumenti adatti a rendere più rapida l'assimilazione della lingua araba. La biblioteca dispone di 15.000 volumi, di cui il terzo è in arabo, come pure di una lista di 200 periodici, tra i quali un numero importante di riviste pubblicate in arabo o curate da organismi musulmani. Aggiungiamo che la biblioteca e la documentazione sono aperte anche a studenti e ricercatori non iscritti all'istituto. Non di rado ci si trovano, per esempio, universitari e studiosi musulmani e cui ricerche li hanno condotti a Roma. L'istituto pubblica 3 periodici, ciascuno diretto da un professore dell'istituto: Islamo-Cristiana, Etudes Arabes e Encounter. Islamo-Cristiana viene pubblicata una volta all'anno e dedicata alle ricerche e agli scambi che si situano nell'ambito del dialogo islamo-cristiano. Ci si ritrovano articoli di fondo sull'incontro tra cristiani e musulmani, studi su testi di una certa importanza, una bibliografia quasi esaustiva sulla controversia islamo-cristiana fino al XIV secolo, note e documenti che presentano i fatti e i libri relativi all'incontro dei cristiani e musulmani di tutti i paesi. Etudes Arabes, il cui direttore è il mio collega padre André Ferré, viene pubblicata 2 volte all'anno e riporta sotto forma di dossier testi arabi classici e moderni con la loro traduzione. Questi dossier si rivolgono anzitutto agli arabisti, ma raggiungono anche, attraverso le traduzioni e il commentario dei testi proposti, tutti coloro che si interessano dai problemi e dalle tendenze dell'Islam contemporaneo. Qualcuno dei titoli: Les Frères Musulmans, i fratelli musulmani, testi arabi, testi francesi, le organizzazioni islamiche internazionali, costituzioni, statuti in arabo e in francese, il commentario del Corano, il dibattito intorno all'applicazione della Sharia, testi arabi, testi francesi, l'Islam, religione dello Stato, testi arabi, testi francesi, la vocazione o l'appello o la chiamata all'Islam, la Dawa, testi arabi, testi francesi. L'ultimo è il numero 74, che comporta dei testi arabi con la traduzione in francese su Gerusalemme al-Quds. Nonostante le incertezze che hanno costellato la sua breve presenza a Roma, incertezze che ancora perdurano, l'Istituto ripone la sua speranza sulla ferma convinzione che il lavoro perseguito al servizio del Regno è approvato dalla Chiesa. Per il PSAI, l'avvenimento più significativo della sua breve storia è stata la visita di Sua Santità Giovanni Paolo II al Marocco nell'agosto dell'85. In occasione di un recente colloquio con i professori dell'Istituto, il prefetto della Congregazione per l'Educazione Cattolica, il Cardinale William Baum, teneva a sottolineare per la Chiesa e per l'Istituto in particolare tutta l'importanza della visita del Papa. Voi vi trovate adesso, voi e il vostro istituto, davanti a nuove responsabilità e a nuovi orizzonti di lavoro. Voi siete infatti nella Chiesa l'istituto meglio qualificato ad affrontare i problemi teorici e pratici che comportano i rapporti che ci auguriamo saranno più frequenti con l'Islam. Voi dovete dunque prepararvi a questa nuova tappa importante che il Signore sembra aprire alla sua Chiesa e al dialogo che ella deve offrire a tutti, e specialmente all'Islam. Queste parole costituiscono un commento appropriato al gesto profetico posto da Giovanni Paolo II nei confronti dei fedeli dell'Islam, non soltanto del Marocco, ma del mondo intero. Per tutto il personale del PSAI, queste parole sono un incoraggiamento a perseguire il compito che l'Istituto si è dato nel volersi applicare, sono parole degli statuti, volersi applicare allo studio e allo sviluppo delle discipline atte a preparare nella loro mansione apostolica i missionari destinati ad instaurare il dialogo della salvezza con i musulmani. Vi ringrazio per la vostra gentile attenzione. Ringrazio il padre Garon per questa presentazione della storia e dell'attività di questo importante istituto, che deve preparare coloro che più sono capaci di dialogare con l'Islam. Aspettiamo che anche da parte dell'Islam un giorno sorga un interesse più diretto allo studio del cristianesimo. Io sono stato in vari incontri cristiani e musulmani, ancora non ho scoperto un musulmano che si dedichi a scoprire il cristianesimo, quale è, non quale è presentato nel Corano, che non esiste. Oggi esiste la Chiesa Cattolica Apostolica Romana e il dialogo deve essere fatto con questa Chiesa. Allora si chiede come i cristiani si occupano di scoprire cosa è l'Islam nella sua storia, nelle sue origini. Sorga anche in mezzo ai musulmani almeno la curiosità di sapere realmente cos'è la Chiesa Cattolica Cristiana oggi.